m'ha fatto uire e m'ha fatto venire su te la tua finestra sospirare la poporinella e la poporinella mi ha fatto iettare gran sospiri non si voluta una volta affacciare la poporinella e la poporinella casa affacciava di la viatterire remi e chi si potuta lamentare la poporinella e la poporinella la rituriella non me vuoi chiamare ca te su stato un amante di miele la poporinella e la poporinella la vie griru tu ca te vi ha lasciato e tu correre me già qui nude la poporinella e la poporinella.